si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate fin da adesso a prenotare il vostro intervento dopo una rapida occhiata alle prime pagine dei giornali. Adesso cominciamo con i nostri approfondimenti. Tra poco parleremo dell'Europa, sì, dell'Europa nel giorno delle elezioni, ma non parleremo di politica, anche perché non si potrebbe. L'Europa che propone di cancellare la scritta da consumarsi, preferibilmente entro, su alcuni alimenti, per evitare gli sprechi di cibi, riso, pasta, caffè e quant'altro, cibi ancora commestibili ma spesso buttati via dai consumatori proprio per via di questa indicazione. Una buona notizia, vedremo. 800 24 00 24, vogliamo sentire anche i vostri interventi. Potete chiamare anche per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana o per partecipare al nostro gioco indovina il personaggio della settimana. Il primo indizio però ve lo daremo tra poco, dopo la pubblicità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ho un'amica super fica che sta con uno che non la merita mica. Lui era in viaggio in Africa e l'ha tradita, mentre la consolo penso viva l'Africa. Vorrei un telecomando come Sky, così quando ti imbarazzi metti in pausa e te ne vai. Vai vai, hasta luego. Se parlate troppo di cazzate me ne vado, perché il tempo non lo spreco. Dalla me se non ti va, a me se non ti dà quello che ti dava prima me lo ridarà. Dallo a me che non ti pentirai, non lo richiederai mai. Dallo a me non si sa mai, è sempre vuoto il mio piatto, finisco. Lotta agli sprechi, dicevamolo. In Europa ogni anno si buttano 89 milioni di tonnellate di cibo, questo anche perché c'è la dicitura da consumarsi preferibilmente entro, cioè non solo per questo motivo si butta il cibo, ma anche per questo motivo, ed è per questa ragione che a quanto sappiamo la prossima riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura potrebbe decidere di togliere questa scritta appunto da alcuni generi alimentari, tra cui pasta, riso, tè, caffè, formaggio duro. Ne parliamo intanto con Antonio Galdo, che è direttore e fondatore di un gran bel sito che si chiama nonsprecare.it. Buongiorno Antonio. Buongiorno. E anche però con chi su questa misura esprime qualche perplessità, cioè la Coldiretti, in particolare responsabile della sicurezza alimentare di questa organizzazione di coltivatori, che è Rolando Manfredini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatore. Allora, intanto con Antonio Galdo, direttore di nonsprecare.it, che tra l'altro è anche una bibbia di consigli per non sprecare, articoli, insomma notizie veramente tanti ogni giorno, ogni settimana. Intanto un commento su questa notizia, che viene accolta come una buona notizia, perché insomma il problema dello spreco del cibo alimentare, del cibo insomma degli alimenti, è un problema piuttosto importante, e che arrivi diciamo una direttiva dall'Europa, una linea di marcia, può essere un segnale importante. Antonio, io ho sempre, come dire, qualche riserva sulle direttive europee, che di solito sono firmate dalla peggiore burocrazia che abbiamo nei nostri paesi. Detto questo, sicuramente serve un minimo di chiarezza su un punto. Attorno a queste famose etichette, al modo come sono state costruite, c'è stato un grande spreco e c'è stato anche in qualche modo una grande truffa, nel senso che i consumatori molto spesso sono stati ingannati dall'idea che dietro quella dicitura da consumarsi preferibilmente entro ci fosse, come dire, un cibo che ti portava alla tomba. In realtà non è così. In realtà, tra l'altro, i consumatori molto più saggi a volte dei burocrati hanno già modificato per il 60% i loro comportamenti rispetto alle scadenze, a quel tipo di scadenze. E tra l'altro vi comunico che quello che oggi abbiamo visto per anni, e cioè un grande spreco alimentare, pensate che su 10 yogurt venduti, 5 finivano nella spazzatura, per nostra fortuna si sono ridotti. Cioè il 50%... Gli italiani sono più avanti dei burocrati europei. Il 50% degli yogurt addirittura viene, sì, viene buttato via per sì, via di... E invece Antonio, questi yogurt, adesso sentiamo anche col Diretti, però questa è una cosa che un po' si sa, no? Potrebbero essere consumati o no? Assolutamente sì, semplicemente diminuiscono alcune caratteristiche organolettiche. Sì. Sentiamo anche su questo, Ronaldo, su questo intanto, Manfredini, responsabile della sicurezza alimentare di Coldiretti, è d'accordo con quello che ha detto Galdo? Sono d'accordo in parte, diciamo. Sono contrario al fatto di dire che ci sia... intanto bisogna chiarire un fatto. Ci sono due date di scadenza, il consumatore deve sapere che una riguarda la sicurezza alimentare ed è quella dei prodotti che sono altamente deperibili e che sono quei prodotti che normalmente hanno una data di scadenza che devono essere consumate entro 30 giorni. Allora, tra questi prodotti, e qui purtroppo c'è un po' di confusione, se uno va a girare nei supermercati può trovare lo yogurt da consumarsi entro. In alcuni casi devo anche dire, ho visto anche degli yogurt effettivamente che c'era da consumarsi preferibilmente entro, quindi bisogna scindere le due cose ed è su questo che si è innescata secondo me un bel po' di confusione. Sullo yogurt, scusi Manfredini, sì, poi la faccio finire, su questa cosa dello yogurt in particolare è d'accordo con quello che ha detto Galdo? Io sul fatto che lo yogurt possa essere consumato anche dopo la data di scadenza, in alcuni casi si può ammettere che può essere consumato anche 3-4 giorni dopo la data di scadenza, però attenzione, se questa data di scadenza si riferisce alla vera e propria data di scadenza, cioè al limite per cui ci possono essere dei problemi dal punto di vista della sicurezza alimentare, io non sono d'accordo di consumarlo. Ma questo dove sta scritto? Sta scritto da qualche parte? Quando c'è scritto sopra da consumarsi entro e non preferibilmente entro, e sullo yogurt c'è scritto da consumarsi entro, quella è una data di scadenza che si riferisce alla sicurezza alimentare, pertanto un limite insormontabile per non far sì che il consumatore possa avere dei problemi di sicurezza alimentare. Scusi un attimo Manfredini, perché almeno su questo vorrei vedere se siamo d'accordo, poi la faccio proseguire perché stava facendo un discorso. Galdo, su questa differenza, cioè preferibilmente con o senza la parola preferibilmente, siamo d'accordo? D'accordo sul fatto che se non c'è questa parola allora bisogna rispettarla? No, si genera confusione con le parole, ci deve essere una scadenza, punto, non ci possono essere 10 declinazioni di uno stesso concetto. A casa mia consumiamo yogurt anche alcuni giorni dopo la scadenza, nessuno ha mai avuto qualche problema. Ma casa sua. Un attimo, allora intanto invito gli ascoltatori a chiamare 800 24 00 24 perché tra poco li sentiamo su questo argomento. In ogni casa, in ogni famiglia è inevitabile che non ci sia questa discussione, spesso tra moglie e marito o tra chi condivide insomma la casa e il frigorifero, no? Guardi che la sicurezza alimentare Manfredini, non la possiamo costruire sulle parole. Un momento, uno per volta, facciamo finire intanto Manfredini della Coldiretti che stava facendo un discorso. Allora, sono ben chiare le dizioni, e si riferiscono anche precisamente a una legge che è la 109, sono ben chiare le dizioni da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Noi non possiamo confondere le due dizioni. La prima, come dico, si riferisce alla sicurezza alimentare, pertanto chi consuma dopo quel prodotto, e tra l'altro, attenzione, quel prodotto non può essere più commercializzato, da consumarsi entro, se è scaduta ed è passata quella data, non può essere più commercializzato il prodotto per legge, proprio perché si riferisce a questioni che riguardano la sicurezza alimentare, ma qui bisogna essere molto chiari. Mentre invece da consumarsi preferibilmente entro sta a significare che quel prodotto non riguarda quella scadenza alla sicurezza alimentare, ma riguarda la perdita di indici qualitativi che non c'entrano nulla con la sicurezza alimentare, pertanto un prodotto in quel caso sì che può essere consumato anche dopo la data data di scadenza, e tra l'altro può essere anche commercializzato, sì, ma si riferisce allo scadimento di questi, ecco, che ecco, la qualità. Questo mi sembra importante. Per facciamo sì. Questo bisogna dirglielo chiaro. No, l'abbiamo detto. Stando ai prodotti di cui sembra che il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura potrebbe interessarsi per togliere questa dicitura da consumarsi preferibilmente entro, cioè pasta, riso, caffè, formaggio duro, Manfredini, su questi prodotti come valutate questa possibilità di togliere l'indicazione e dunque di abbassare, in base a quello che dice lei, la guardia sulla qualità, ma di non generare confusioni, come diceva Galdo, e quindi di dire guardate, potete mangiarlo tranquillamente, poi se il caffè ha perso qualche proprietà, cavoli vostri, insomma, da questo punto di vista. Qual è il suo giudizio di Coldiretti? Contrario al fatto che venga tolto il TMC, cioè il tempo minimo di conservazione, cioè da consumarsi preferibilmente entro. Perché siamo contrari? Perché effettivamente il prodotto incomincia a perdere le sue caratteristiche qualitative. È un'indicazione per cui il consumatore può, sulla base di quello che sente lui e magari in condizioni di conservazione che possono essere diverse, è in grado comunque di decidere se consumare o meno quel prodotto. Però è giusto, scusi Manfredini, ma è giusto, cioè, buttare, anche, mi scusi Manfredini, parliamo però di spreco, ricordiamoci che siamo partiti da questo, è giusto buttare... Ma allora lì dopo apriamo un altro discorso. No, però mi faccia fare la domanda, se no non ha senso tutto ciò. È giusto buttare del caffè perché ha perso delle qualità, o del riso o della pasta, ma che potrebbe essere consumato? Questo è il punto. No, non è giusto buttare quel caffè, assolutamente. Infatti può continuare ad essere consumato e chiaramente in questo caso però decide il consumatore, sapendo che quel caffè può aver perso determinate caratteristiche qualitative. Questo non c'è un breve dubbio. Io posso consumare anche una pasta che può aver perso determinate caratteristiche qualitative, ma sono io come consumatore che decido di mangiare un prodotto con una minore qualità. Va bene, un'altra cosa. Per la salute. Sì, un'altra cosa, Manfredini, posto che voi fate appunto questa distinzione, quindi non volete che cada il consumarsi preferibilmente entro, che però appunto in alcuni paesi, forse l'Olanda, la Germania, non so chi altri, no, la Svezia, la Germania lasciamola fuori, se no tirano in ballo la Merkel e si ritorna al vecchio dibattito. E posto che questi paesi spingono e quindi potrebbe arrivare questa misura, voi siete contrari. Quale altre cose invece Coldiretti propone e fa per diminuire gli sprechi del cibo, insomma, dei prodotti alimentari, che è un grossissimo problema? Ecco, allora, guardi, qui la sua domanda è veramente molto pertinente e interessante, perché effettivamente, secondo tutto questo, secondo noi lo spreco ovviamente va combattuto. Noi siamo, è vero che quest'anno abbiamo migliorato moltissimo nell'ultimo anno e mezzo in termini di spreco, come diceva prima il collega, è effettivamente vero, ma sappiamo bene che più o meno il 42-43% dello spreco alimentare da noi nella nostra società avviene in casa e viene praticamente con le pratiche non consone che si fanno in casa, dal momento dell'acquisto, e quindi nel momento stesso in cui noi acquistiamo, fino ad arrivare al momento della conservazione. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che secondo noi vanno aggiustate. Il fatto, per esempio, non so, di acquistare correttamente il cibo in un supermercato e non lasciarsi convincere da quelle offerte 3x2 che poi sono magari proprio vicine alla scadenza anche in termini di sicurezza alimentare e quindi vengono poi buttate, ma il fatto di avere anche un'ottima gestione, per esempio, del frigorifero, la regola del prima dentro prima fuori, per esempio, non viene quasi mai utilizzata. Ci sono tutta una serie di situazioni per cui chiaramente lo spreco deve essere combattuto. Qual è la regola, scusi, del prima dentro prima fuori? Già che ci siamo. Nel momento stesso in cui noi mettiamo in frigorifero un prodotto, lo mettiamo dentro, deve essere anche il primo che torna fuori nel momento stesso in cui lo utilizziamo, in modo da non accatastarlo dietro agli alimenti che poi dopo Okay. Ci scaduto e roba del genere. Quindi c'è anche, per esempio, la gestione del frigorifero, ma la stessa gestione tecnologica del frigorifero, il fatto che debba essere controllato, il fatto che debba essere pulito, cioè tutta una serie di norme che naturalmente, che però in questo caso insomma ricadono un po' anche, insomma, sui singoli, sulle persone, su chi poi è responsabile responsabile della sua gestione, diciamo, del comparto alimentare familiare. Antonio Galdo invece, ricordiamo, intanto se vuoi ancora chiosare quello che diceva il responsabile della Coldiretti, e poi parliamo comunque anche delle vostre iniziative come sito online nonsprecare.it. Tra l'altro avete anche bandito da poco un premio, adesso poi ce ne parlerai. Allora, solo per chiudere il discorso sì. precedente con una battuta: la sicurezza alimentare è un bene assoluto, quindi è una cosa che va protetta. Il punto è che non si protegge la sicurezza alimentare generando confusione e panico nei comportamenti dei consumatori. Le norme devono essere poche, chiare ed efficaci e devono evitare quello che sta avvenendo ancora in modo scandaloso, lo spreco del cibo all'interno della catena alimentare. Le iniziative, devo dire che la coscienza contro lo spreco, io parlo addirittura sì. di una rivoluzione negli stili di vita, nei consumi e anche in qualche modo nel modello di sviluppo, è già in atto nel nostro paese. Le pensi soltanto un dato. Primo dato: il 77% degli italiani ha già rivoluzionato il tipo di spesa e quindi ha già modificato i propri comportamenti nel momento in cui va a fare la spesa. Cioè, stando attento a non sprecare. Beh, una delle cose più semplici sì. che gli italiani hanno capito è che quando si va a fare la spesa in un supermercato per evitare appunto le spese compulsive, è bene andare con un foglietto nel quale sono scritte le cose che uno intende. Come si faceva una volta, la famosa lista della spesa. In secondo luogo, si è sì. allargata l'offerta, la concorrenza, c'è un fenomeno dei mercati a chilometro zero, alcuni devo dire anche alimentati molto bene proprio dalla Coldiretti, che sta producendo degli effetti importanti ai fini della cultura del consumatore e ai fini anche di questa battaglia che stiamo facendo ognuno nel suo ambito contro gli sprechi. Il secondo elemento che le segnalo è che abbiamo parlato per tanto tempo di ritorno alla campagna, quasi come se questa fosse una cosa bucolica. In realtà qui attorno alla campagna si sta costruendo un pezzetto del nostro, ma un pezzo importante direi, del nostro cambiamento e del nostro futuro di sistema paese. Nel 2013, in piena crisi economica, sono nate 12.000 imprese agricole, delle quali il 17% sono fatte da ragazzi sotto i 30 anni. Ora ditemi voi se questi non sono numeri importanti in un paese che ha una disoccupazione giovanile cronica come la nostra. E dentro questo sistema un sito come Non Sprecare, che racconta tutti i giorni storie di questa rivoluzione, noi siamo un sito che racconta la rivoluzione. L'ho detto, in effetti è più che di un sito di notizie, è proprio un sito di costume, di notizie, ci sono i video, ci sono ricette, soluzioni e c'è anche un premio. Ce lo vuoi raccontare in un minuto, poi ci salutiamo perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Il premio lo abbiamo lanciato quest'anno sì? con l'Università LUISS ed è un premio a proposito di nuova agricoltura e a proposito di Non Sprecare, che si configura come una quantità di prodotti biologici pari al peso del vincitore. Partecipare è semplicissimo, non costa nulla, basta andare nella sezione dedicata al premio del sito Non Sprecare e premiamo proprio le buone pratiche di aziende, scuole. Pensate che in Italia sono centinaia le scuole che fanno dei corsi di educazione civica intitolati Non Sprecare. Premiamo associazioni e istituzioni che si battono contro Benissimo. Lo spreco e premiamo ogni anno un personaggio simbolo di questa battaglia, che è una battaglia di cambiamento del nostro paese. Bene, e insomma chiunque si senta in prima linea su questa cosa vada sul sito nonsprecare.it e può partecipare appunto anche a questo concorso. Allora grazie ad Antonio Galdo di nonsprecare.it, ma grazie anche a Manfredini, a Rolando Manfredini della Coldiretti. Grazie a entrambi, buona domenica, buona giornata. 800 24 0024, tra poco sono curioso di sentire anche i vostri interventi su questo, generano già messaggi sullo yogurt scaduto, non scaduto, mangiato addirittura 10 giorni dopo, ci scrive un ascoltatore, basta che non ci siano rigonfiamenti nella pellicola di alluminio che lo ricopre. 800 24 0024, tra poco. si può fare. Cronache da un paese migliore. Buona domenica anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno, ciao Alessio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica. Allora, ben ritrovato. Intanto, grazie mille. Io l'ospite giusto questa mattina per parlare della conservazione degli alimenti, secondo me ero io. Eri tu. No, mi è spiaciuto molto perché è un argomento che mi interessa moltissimo, anche perché i miei follower su Twitter, per esempio, si occupano spessissimo di questa cosa. È per quello, perché, lo so che esatto, fate queste conversazioni. Twitto su... spesso, siccome non vivendo più con mia mamma, che diciamo gestiva lei la dispensa di casa, io sono in grandissime ambasce tutte le volte. Non so quando si può mangiare, tipo il riso se è scaduto, però è ancora diciamo sotto vuoto, si può mangiare o meno. Di solito si scatena sempre una battaglia per cui esattamente. Di solito è sempre: ma puoi mangiarlo, mangialo tranquillamente. Io devo dire che da solo non mi fido mai molto. Con il riso sotto vuoto va bene, però con altre cose c'è sempre quel rischio che ci farà male o non farà male. E poi, secondo me, la data di scadenza dà anche un'altra indicazione, nel senso che anche semplicemente sul minestrone, per dire, sì. A me sapere che scade nel 2017, vabbè, almeno so che se ho un altro vaso che invece scade nel 2019, diciamo mangio prima quello che scade nel 2017, sì. Li mangio tutti e due prima della scadenza, però almeno so in che ordine, perché poi improvvisamente mangiare un minestrone magari non fa male, però che è stato prodotto nel 1983, un po' mi agiterebbe, così magari ci sono delle verdure che non esistono nemmeno più sulla faccia della terra. Quindi secondo me la data di scadenza spesso è anche semplicemente un'indicazione. In casa mia vige questa regola qua: se c'è scritto preferibilmente entro, lo devi mangiare anche se è scaduto da 25 anni, perché c'è preferibilmente, quindi non fa male, e per mia mamma, siccome non si butta via niente, ecco, malissimo che vada, finisce nel polpettone. Se c'è scritto invece da consumarsi entro il, che di solito è più legato per esempio alle medicine, lì non ci sono discussioni. Diciamo. Esattamente quello che insomma è un po' emerso nella nostra discussione, anche se non tutti sono così vigili, e a volte anche questo preferibilmente entro spinge, induce alcuni a buttare. Allora, sì, in fondo, comunque in fondo insomma, qualunque cosa, qualunque alimento è meglio mangiarlo fresco, no? Quindi, però non è che c'è scritto sul pane o ti danno un etto di prosciutto, è chiaro che il giorno dopo o tre giorni dopo lo vedi da solo, e questo vale un po' per tutto. Però sono cose che poi bisogna comunque sapere, nel senso che il pane è molto semplice, a un certo punto è molto duro e tu dici non lo mangio più perché è troppo duro. Su altri alimenti che sono confezionati, io che non infatti, ne so che cosa c'è dentro, infatti, se c'è un colorante che scade, il dibattito se c'è... è aperto. 800 24 00 24. Tra poco sentiremo anche gli ascoltatori. Intanto dobbiamo dare, anzi diamo il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana che dovete indovinare. Si vincono i biglietti e il catalogo per la mostra Pre-Raffaelliti, una scelta a Torino o Warhol a Roma. Quindi premiamo anche in base allo Pre-Raffaelliti e post-Raffaelliti, come ormai diciamo, giusto? Warhol sì, è un post-Raffaellita. È l'unica diciamo senz'altro nozione sulla storia dell'arte che io ho. Primo indizio è: ha a cuore il suo paese. Il personaggio di questa settimana ha a cuore il suo paese. Via. Ottimo. E partiamo. E allora, io volevo dire intanto che sono triste per come è finita la finale di Champions ieri, la partita Real Madrid Atletico Madrid, che è finita 4-1 fino al 90 secondi, diciamo alla fine neanche del tempo regolamentare, perché avevano dato 5 minuti di recupero. L'Atletico Madrid avrebbe vinto la Champions. E diciamo, fra Davide e Golia, io avrei preferito che vincesse Davide, invece ha vinto Golia. E non ho neanche apprezzato moltissimo il fatto che Ronaldo, segnando un rigore, non facendo una gran partita, segnando un rigore al 120esimo minuto, cioè all'ultimo minuto, ha esultato in quel modo. Sì. Ha esultato in un modo come sembrava se fosse stato. Sì. Comunque, l'Atletico Madrid aveva già perso una finale di Coppa dei Campioni nel 1970, se non sbaglio, proprio con una rimonta all'ultimo secondo. È un destino. È un destino, e va bene, e questa è finita così. Per la serie invece italiani che non si arrendono, la notizia è di una giovane coppia milanese che ha un sogno, ovvero vuole sposarsi a giugno 2015, però non ha i soldi per fare questa cosa. Che cosa si sono inventati? Quindi Luciano, 27 anni, un programmatore informatico, e la sua futura moglie Sara, 29enne, siccome vogliono una cerimonia diciamo con tutti i crismi, da 150 invitati più o meno, con le bomboniere, le fedi, il servizio fotografico, ristorante, fiori, partecipazioni, l'abito alla sposa, il riso, addirittura anche il viaggio di nozze, giustamente, ci mancherebbe altro, hanno deciso di cercare degli sponsor che investano su loro come coppia, omaggiando i propri servizi, fornendo anche un grosso sconto, diciamo, sui propri servizi per affrontare le spese più ingenti. Ma proprio adesso che c'è la crisi degli sponsor che non investono più. Però appunto perché c'è la crisi degli sponsor, in realtà è più facile probabilmente trovare degli sponsor che ci mettano delle piccole cifre oppure che ci mettano dei servizi. Perché di solito quando un evento cerca uno sponsor, il vero problema è avere il cash, cioè qualcuno ti dà dei soldi per cui tu dopo devi organizzare un evento e hai bisogno di spenderli. Invece qualcuno che magari ti paga i viaggi oppure che ti paga degli alberghi è più semplice. Loro hanno aperto un blog che si chiama Finché Sponsor Non Vi Separi e cercano i fondi. Quindi cercano idea come si è detto abbastanza originale. No, sì. L'idea è molto bella, non è l'hanno presa da altre persone, a una coppia a Treviso che è riuscita a pagarsi con gli sponsor le spese di matrimonio e battesimo e hanno deciso anche loro di organizzare questo tipo di raccolta fondi. Sempre riguardo le date di scadenza, quindi gli alimenti, quello che va scritto sugli alimenti, la proposta, c'è una proposta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che arriva all'Assemblea Generale, ovvero mettere sulle confezioni di cibo spazzatura delle immagini shock sui danni alla salute, un po' come si fa per le sigarette. Per le sigarette. Sì, l'avevo perché sentito i rischi, girare questa cosa. Mi sembra, non lo so, se, nel senso che già quelli delle sigarette, però insomma, è interessante. Interessante secondo me il fatto di rendersi conto che in realtà i rischi derivati dall'alimentazione sono più gravi di quelli del tabacco. Questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, certo, che dice questo. Ma mentre delle sigarette appunto possiamo farne a meno, è impossibile astenersi dal mangiare, quindi giustamente dicono fumare fa male, non fumate, punto. Mangiare dobbiamo mangiare, cerchiamo di mangiare sano. Quindi loro dicono cerchiamo di capire la dannosità degli alimenti, di modo poi da proibire spot di alimenti spazzatura, per esempio in certe fasce orarie, ridurre per legge la quantità di grassi, zuccheri e sale nel cibo che compriamo, tassare il cibo scadente e appunto ricoprirlo anche di immagini e scritte allarmanti, tipo non lo so che cosa si scriverebbe sul polpettone di mia mamma, per esempio. Però quali sono questi cibi che fanno male alla salute? Non voglio, questa è l'Organizzazione Mondiale, non parlerò di questo ovviamente, che non vorrei mai che uno dice ma no, proprio il salame, proprio quella cosa che piace a me, la pizzetta, il panino con la mortadella, e quindi di scriverci sopra nuoce gravemente alla salute, causa tumori, infarti, invecchia la pelle, addirittura uccide, perché il sovrappeso è un problema sociale. Il numero di morti causati dall'obesità è passato dai 2,5 milioni di morti nel 2005 ai 3,8 milioni nel 2010, quindi in solo 5 anni è quasi raddoppiato, mentre le persone in sovrappeso e obese sono ormai più di 500 milioni nel mondo. Ed è veramente paradossale che mentre in alcuni paesi c'è il problema dell'obesità e in altri paesi c'è ancora il problema di averne abbastanza, no? Esattamente, cibo. Addirittura in questo articolo si dice che l'obesità è un problema più grave delle carestie e della fame, che è sempre una cosa da leggere difficile, nel senso che dico ho come la sensazione che in realtà poi chi invece soffre di carestie e di fame soffre di più, però ciò non toglie che se si contano i morti, questo pare che siano i dati. Finisco molto rapidamente col fatto che è uscito la nuova edizione del Devoto Oli nell'edizione del 2014 e ovviamente come tutti gli anni ci si chiede le nuove parole che vengono accettate dal dizionario. No, niente, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Sono fuori qualcosa di... No, niente di strano, anzi non starò nemmeno ad elencarlo, nel senso che mi incuriosisce sempre una cosa che ho sempre guardato fin da piccolo, perché in teoria le parole nel momento che vengono messe nel Devoto Oli o in un dizionario diciamo ufficiale, poi se le usi in un compito di classe a scuola nessuno ti può dire che tu non puoi usarla questa. Quindi parole come spread, che sono entrate ufficialmente, però anche bonazza oppure svalvolare sono parole accettate. Adesso non sto a leggerle tutte, sono tante le nuove parole accettate. Pare che selfie non sia ancora stato accettato, si dovrà aspettare l'edizione del 2015. Ci arriveremo. Esatto. 800 24 00 24. Facciamo una breve pausa. Sì, dai, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed è finalmente il momento degli ascoltatori all'800 24 00 24. Tina da Milano, buongiorno. Se può abbassare Tina la radio ed ascoltarci al telefono, Tina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, sono lieta di poter intervenire. Perché è da sempre che io penso che, insomma, questa legge è anche molto sciocca, perché, ripeto, quale non legge? Per motivi economici, però io ho sempre utilizzato prodotti, certo, valutando di volta in volta. Il mio medico stesso mi diceva, scusami, mi sembra una persona intelligente, insomma, non riesce a capire anche il gusto, eventualmente, della cosa che si trova. Cioè, parlando dello yogurt. Sta parlando della data di scadenza, insomma, a lei la data di scadenza non serve perché no, ma soprattutto valuta lei. Per quanto riguarda lo yogurt, io li ho utilizzati anche dopo, magari anche un mese, anche più, diventano più spessi, magari perderanno i fermenti lattici, saranno meno intensi, ma d'altra parte utilizziamo yogurt alla frutta quando per poterli sterilizzare praticamente i lattobacilli finiscono tutti, non esistono praticamente. Ma scusi, perché lei è un'esperta, nel senso che io mi agito moltissimo a mangiare uno yogurt dopo mese, non sono un'esperta, sono una che si interessa di cucina, sono un po' una tuttologa. Appunto, è tuttologa, un po' tutto. È esperta, il suo medico le dice anche che è intelligente. Io invece che sono più stupido ho paura di non sapere se posso mangiare. Medico, anche con le medicine lo faccio, per quello. Perché per esempio con le pomate grasse, la pomata grassa è un conservante e quindi me lo dice. La pomata grassa, medico, che cos'è la pomata? Scusi Tina. Ho degli amici medici. Tina, scusi, che cos'è la pomata grassa adesso? Le pomate che usiamo, non so, posso dire un nome, non so, Voltaren, posso dire in medicina, ha capito, ma anche se fosse l'aspirina, se al massimo si è scaduta, non dico di mesi, però al massimo perde un po' di effetto. È perfetto, perché è la stessa linea difensiva di mia mamma, però quello che le chiedo è che io sono d'accordo con lei, però come sta dicendo lei, se uno è in grado, diciamo, di decidere, oppure c'ha degli amici medici, però c'è anche chi invece magari non ha amici medici e non è in grado di decidere, è bene che lega una data e non la prenda, no? Posso fare un altro esempio proprio lampante in 30 secondi, Tina. Che mi è capitato in settimana. Allora, mia nipote aveva un panettone, dice, zia, ce l'hanno regalato a Natale in una famosa pasticceria di Palermo. Ecco, posso dire anche il nome, Fiasconaro. E mi dice, oddio, è scaduto il 31 gennaio. Dico, oddio, se è una pasticceria, un conto quindi sono quelli industriali che magari hanno conservanti, quello lì. Però, insomma, aspetta a buttarlo, dammelo tutto impacchettato, lo apro, un profumo strepitoso, zibibbo, marsala, miele, una cosa stupenda. Vabbè, era ancora buono. Tina, che per loro è fantastico. Grazie. E quindi insomma uno deve anche sentire il profumo. Grazie Tina, io ho capito che lei andrebbe avanti tutta la mattina a darci consigli e suggerimenti. E io condivido la sua posizione, solo che lei mi sembra molto preparata. Ma lei ci invita a sperimentare, a capire, a curiosare, a imparare anche a trattare gli alimenti, a capire anche un po' in autonomia, a aprire l'involucro e vedere cosa c'è dentro. Non è un suggerimento sottovalutare. 800 24 00 24, tra poco altri ascoltatori, e tra l'altro vi aspettiamo anche sul personaggio della settimana. Ripeto l'indizio, vuoi dirlo tu Carlo? No, dillo tu. A cuore il suo paese, quindi questo è l'indizio del nostro personaggio che bisogna indovinare. E fra poco arriveranno dei nuovi indizi. Adesso invece è il momento delle nostre cartoline dalle periferie, ce le invia Simone Saccucci, che ritroviamo. Buongiorno Simone. Buongiorno. Il nostro operatore sociale che per passione fa il cantastorie, porta avanti un progetto di canzone teatro, non solo nei teatri ma anche in una cava di marmo a Guidonia. Lo farai anche, dovresti rifarlo anche a giugno lo spettacolo, vero Simone? Sì, con Harry De Luca. Con Harry De Luca, poi è andato a Scampia, farà uno spettacolo, credo in autunno lì, e tornerà in Inghilterra a novembre, tante cose. Oggi qual è la cartolina che ci vuoi scrivere? Bene, oggi vi parlo della via principale della mia periferia. Ogni periferia ha una via principale. Qualche periferia si è fortunata anche i negozi sulla via principale. Su questa via gira spesso un uomo che si chiama Enrico. Però tempo fa qualche negoziante lo chiamava Enrico Mille Lire, perché entrava ogni giorno nei negozi, in particolare in uno, e chiedeva 1.000 lire. Se gliene davi di più, lui ringraziava e ti dava il resto. Ci si è chiesto per tantissimo tempo cosa facesse con queste 1.000 lire. Poi si è cominciato a raccontare che ogni notte Enrico scavalcava il cimitero per andare a trovare la madre e per dormire con lei. A lei ogni notte Enrico portava un fiore. Ecco, oggi mi piace pensare che con quelle 1.000 lire Enrico comprava un fiore, e mi piace anche pensare che i commercianti devono stare sulle vie principali delle periferie, perché possono fare tantissimo al di là della loro attività commerciale, addirittura possono aiutare qualcuno a comprare un fiore. Bella Simone, bellissima, grazie storia. Ma vale anche con l'euro o vale solo con le 1.000 lire? Sì, speriamo che valga anche con l'euro. E soprattutto il cambio è 52 centesimi o un euro, che quindi sono 2.000 lire e mezzo fiore, tra l'altro, oggi come sì, oggi un quarto di fiore. Non volevo rovinare tutta la poesia in realtà del tuo racconto, perdonami. Grazie, comunque a Simone Saccucci, ti ritroviamo domenica prossima con la tua cartolina. Il francobollo oggi è la canzone di Simone Saccucci, Sono diventato cattivo piano piano. Sono diventato cattivo piano piano, per difendere le cose che mi sfuggono di mano, diventando cattivo lentamente, fregandomene di tutto, sono diventato niente, un fermacarte sulla mia testa, bello pesante, così mi fermo la crescita, e non dovrò più vedere altri fermacarte ed altre scrivanie. La faccia che ho una rabbia in corpo, non la vedi eppure dici che sei spaccato proprio come me. Ho le rughe in faccia, però mi guardo nello specchio ed ho 2 chili di borotalco dentro al secchio. Per diventare un bellissimo fantasma ci è voluto molto tempo, almeno 80 anni di pazienza. Mamma mi fa lavare le mani 200 volte al giorno ed ho la faccia pulita, sì, ma è triste anche quando sogno, e poi dice che è tutta per me. Spargia mucchina e paura tra le mie coperte, non la vedi la faccia che ho. Ci siamo ritagliati ancora qualche secondo prima di chiudere per la pausa per il giornale radio, per un ascoltatore, Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. Ho dato il nome del personaggio, sì? Vostro. Voleva partecipare? Sì, è Oscar Farinetti. Perché, secondo lei? Perché sì, il tema vostro è la realizzazione. Sì. No, abbiamo detto, abbiamo detto a cuore il suo paese, il personaggio della settimana, che quale sarebbe la notizia però di questa settimana relativa a Oscar Farinetti? Questo non ce l'ha, va bene. Giuseppe, fra l'altro non era Farinetti, grazie comunque per aver chiamato, è un'altra persona che ha comunque a cuore il suo paese, un altro personaggio. E che ha una notizia legata a lui di questa settimana. Siamo sempre curiosi, lo chiediamo anche se dite un altro nome, perché magari ci è sfuggito la notizia e ci piace dare una notizia, che è la notizia che per voi era importante. 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati, 800 24 0024, andiamo subito con i vostri interventi. C'è un po' di carne al fuoco, cioè insomma da indovinare il personaggio della settimana, cioè se volete commentare le date di scadenza sui prodotti alimentari. Lucia da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, sei rilevante per l'esattezza. Buongiorno. Ah, buongiorno. Benissimo, cosa voleva dire Lucia? Beh, ecco, io volevo provare a dare la risposta al quesito. Io ho pensato al ministro Franceschini. Perché? Perché si sta interessando, cercando dei mecenati per cercare di salvare le cose, i beni culturali più importanti dell'Italia. E in effetti, quindi, in questo senso avrebbe a cuore il suo paese. Molto a cuore. Che la notizia c'è, ma non è il personaggio che abbiamo scelto noi questa settimana. No, non è lui. Comunque, grazie Lucia per aver partecipato. Ci piace anche l'idea del ministro dei beni culturali che ha a cuore il suo paese. Poi, insomma, sai, non è che ci siano stati dei ministri che non abbiano avuto a cuore il loro paese, appunto, di stare bene culturale. Non ne sarei così a parole sicuro, poi diciamo bisogna vedere cosa si riesce a fare. È sicuramente un indizio largo, però poi ne diamo un altro. Poi volevo anche dire che da stagista, per tutti gli stagisti della radio, ho imparato un nuovo insegnamento, ovvero che quando durante il giornale radio la nostra splendida centralinista Rosa ci dà dei taralli da mangiare, bisogna riuscire a mandare giù la mandorlina prima di tornare in onda, perché sennò io ho la bocca piena e la radio con la bocca piena non si fa, quindi chiedo scusa. È un tentativo di sabotaggio quello di Rosa. Esatto, in invece Alessio bravissimo, lui ovviamente ha mangiato il tarallo, ma nel momento in cui era in onda era perfetto. Le ho ingoiato dritto per dritto. Alessandro D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì. Sì, sì, la sentiamo forte e chiaro. Allora, no, niente, io avevo chiamato prima a proposito del discorso del matrimonio sponsorizzato. Sì. Perché non soltanto è una prassi ormai molto consolidata in questi tempi di crisi, e già da almeno un paio d'annetti io ne sono a conoscenza, ma siccome io sono un piccolissimo distributore, un piccolo commerciante di rompicapo, mi è capitato proprio di fornirli a un mio cliente che li voleva utilizzare in questo modo. Di rompicapo? In che senso? Un mio cliente che ha un negozio, si sposava un suo amico, faceva il matrimonio sponsorizzato, in questo caso il mio cliente gli ha fornito gratuitamente le bomboniere che sono quelle che gli ho dato io. Ah, ma in che senso lei, scusi, è un produttore di rompicapi? Io non sono un produttore, sono un distributore. Io ho vissuto tanti anni in Inghilterra, dove mi sono appassionato così per gusto mio a Ma ci faccia qualche esempio. Ma per esempio, sa, ogni tanto hanno provato anche in edicola a fare quelle collane di rompicapo in metallo, in legno, di cose, li chiamano giochi di ingegno. Adesso ho capito, chiedo scusa perché non capivo che cosa fosse il rompicapo, pensavo che fosse un gioco da fare, diciamo, su carta, invece sono degli oggetti veri e propri che quindi sono anche adatti ad essere delle bomboniere, in questo senso. Di solito incuriosiscono molto, divertono molto, e certo. Se tu oggi nessuno vuol buttare via soldi, io già in 7 matrimoni, quindi non uno, li ho sono stati utilizzati al posto delle bomboniere tradizionali. E poi occupano un sacco di tempo, perché uno durante il matrimonio si occupa del rompicapo, c'è gente che è ancora ferma, che si è sposata a febbraio e ancora adesso non ha risolto il rompicapo della bomboniera. Purtroppo la bomboniera te la danno in fondo. Esatto. Grazie Alessandro, mi sembra, grazie mille. Esatto, una bella idea, un si può fare anche questo, insomma, matrimonio sponsorizzato in questo modo. Paolo da Fermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare della scadenza dei farmaci. Sì. Un farmaco quando scade non è dannoso, perde lentamente la sua efficacia, quindi non è che voglia invogliare ad utilizzare farmaci scaduti, ma io ho ingerito anche farmaci con 5 anni di scadenza che avevano la stessa efficacia. Ma l'ha fatto apposta? Avevano la stessa efficacia. Avevo quello e quello ho preso e quello è stato efficace. Ma mi scusi, ma vale per tutti i farmaci? Perché questa farmaci ovviamente, compresse, pomate, farmaci infusionali ovviamente che devono avere un'efficacia immediata e totale, questo non è assolutamente. Gli antibiotici possono prendere anche 5 anni. Paolo, io le voglio bene, però non è che non la prenderei a metro dell'utilizzo dei farmaci scaduti, mi scusi. Farmaco scaduto da un mese, 2 mesi, 5 mesi, è un farmaco perfettamente efficace. Diciamo così, lei lo ha fatto ed è ancora qui tra noi. Va bene, per riallacciarci però alla scadenza dei prodotti alimentari. Che ovviamente un prodotto alimentare è scaduto quando organoletticamente non è più buono, per il resto una pasta, un riso sono buoni anche molto dopo la scadenza. Comunque questa è un'idea, non voglio... No, ma è tutto molto giusto. No, il problema come sempre è nel momento che uno è solo come me, nella solitudine della dispensa, è sempre difficile sapere se quell'alimento lì sarà dannoso o meno, e nel dubbio uno legge la data di scadenza. Invece sui farmaci non lo so, la regola di mia mamma è che per 6 mesi i farmaci, esiste una zona di tolleranza, dopo 6 mesi effettivamente ci sono alcuni farmaci che potrebbero essere dannosi. Insomma, io non è che posso dire a tutti prendete qualunque farmaco anche anni dopo la scadenza, non me la sento proprio. Che facciamo? Diamo un altro indizio per il personaggio della settimana, facciamo un passettino in avanti. Diamo un altro indizio, do questo indizio qui, il nostro personaggio è un numero 2. Perfetto, allora cerchiamo una notizia di questa settimana con un personaggio che ha a cuore il suo paese ed è anche un numero 2. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. questa bank song perché vogliamo parlare di una notizia che ha a che fare con il mondo appunto delle banche. Carlo, però ci sono aggiornamenti su Twitter o sugli SMS sulle date di scadenza, prodotti, cose. Tu, c'è qualcosa? Io te le comunico. No, perché siamo partiti con lo yogurt e ci invitavano... Per il momento non sulle date di scadenza. C'è una cosa che chiedono a te direttamente, dicono una curiosità, Alessio. Perché dicono niente all'inizio di molti interventi? È vero, bella questa cosa qua. Beh, credo che sia un modo per giustificarsi tendenzialmente. Così, per sminuire un po'. In realtà non ho niente da dire. E poi invece per togliere l'enfasi. Poi parlano per un quarto d'ora. Esatto, è giusto. Allora, titola Il Sole 24 Ore questa settimana: la bella storia dei bancari in pensione che gratis offrono aiuto alle famiglie in difficoltà. E a proposito di spreco, abbiamo parlato di spreco di prodotti alimentari questa mattina, qua parliamo di come evitare gli sprechi nella gestione economica della famiglia. Si tratta del progetto Insieme Onlus che a Modena aiuta appunto le persone in difficoltà tramite le consulenze di questi bancari in pensioni, consulenze gratuite, ad mettere un po' ordine nei conti, nella gestione della famiglia. Tra l'altro ringraziamo, io la conosco, questa giornalista Deborah Dirani, che ha tirato fuori questa notizia da Bologna. Bisogna ringraziare anche questi colleghi inviati che dovrebbero fare gli inviati per noi, spereremo sempre, ma giustamente lei è già una professionista, quindi... Esatto, che ha trovato questa notizia. Ne parliamo con uno di questi bancari in pensione, cofondatore del progetto Insieme Onlus, Gaetano Tripoli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti, perché è bello mettere al servizio se stessi, le proprie conoscenze, le proprie capacità per gli altri, competenze in questo caso utili come non mai, cioè quelle di come far quadrare i bilanci delle famiglie. Quanti siete bancari? Noi siamo adesso in 25. Praticamente operiamo nelle province di Modena. Noi partiamo sempre da un'analisi del bilancio familiare, perché pensiamo che per affrontare seriamente i problemi non bisogna nascondere la testa nella sabbia, cioè solo conoscendo tutti i problemi, solo analizzando tutte le cose si riescono ad affrontare, perché noi quello che abbiamo visto dalla nostra esperienza è che la gente ha paura e quindi pensa che nascondendo il problema questo non ci sia più, questo scompaia. È molto giusta questa analisi, direi. Quindi bisogna per prima cosa far venire alla luce tutti i segni meno, diciamo, tutti i segni meno nel bilancio familiare, non far finta di nulla, quindi valutare tutto. Quindi il primo consiglio che date è proprio questo, cioè fare chiarezza. Sì, fare proprio noi un'analisi, no? Perché purtroppo che cosa succede? Il reddito familiare oggi in molti casi si è ridotto. E allora bisogna trovare o si aumenta il reddito, e sappiamo quanto è difficile aumentare il reddito, oppure si diminuiscono le spese. E questa cosa, il bilancio è molto semplice. E allora molte volte noi iniziamo a dire: ma questa casa è grande, non è grande? Bisogna capire che molte volte è difficile, noi abbiamo una scala di valori. La scala di valore che è data dalla casa, perché senza casa non riesci a vivere, poi le bollette, poi l'alimentazione, l'educazione dei figli e infine, se c'è, il pagamento dei debiti nei confronti di finanziari. Ma mi scusi, non è poi tutto così semplice, è molto complesso, allora noi cerchiamo di mettere su questa scala di valori. Ma come funziona? Nel senso che uno viene da voi e dice: io ho un problema, diciamo, di bilancio, porta tutte le carte e voi analizzate la sua situazione, diciamo, patrimoniale. Noi siamo nati da una sinergia con i centri d'ascolto parrocchiali della Caritas e dalla diocesi di Modena Nantola e noi associazione di volontariato. Adesso logicamente, visto che il servizio in questi 5 anni è stato apprezzato, operiamo anche molto con i servizi sociali dei comuni, dei comuni qua di Modena, Formigine, Maranello, e quindi Ma quindi le persone, sì, diciamo, vi sono segnalate o sono loro che vengono spontaneamente da voi? In tutti e due casi. Ah, perfetto. Sono tutti e due casi. Ci sono quelli che ci sono segnalati dai servizi o dai centri d'ascolto e le persone che si rivolgono a noi direttamente. Abbiamo tutte e due le situazioni, diciamo così. E quindi noi affrontiamo i problemi insieme e cerchiamo di risolverlo. Se vediamo che ci sono, partendo dal presupposto che non è facendo nuovo credito che si risolvono i problemi, sì, però molte volte il microcredito può servire per sanare certe posizioni, allora operiamo anche con operazioni di microcredito e noi li fungiamo da garanti. Senta Tripoli, ma il microcredito fra l'altro è una cosa importante, bella, che quando si riesce a mettere in piedi con tutti gli operatori che servono dà una grande mano, ne abbiamo parlato anche altre volte, ma questa cosa che lei dice, cioè di fare conti in tasca, insomma, e quindi di valutare il bilancio delle famiglie, capire quali sono i punti deboli, eccetera, vale anche per chi è veramente in difficoltà, cioè anche chi si rivolge ai centri d'ascolto, cioè i cosiddetti poveri, insomma, voi analizzate il fatto che possono esserci degli sprechi, degli errori, oppure ci sono dei casi dove non è che ci sia molto da stare ad analizzare? Noi, ogni caso è un caso a sé stante. Noi focalizziamo l'interesse, cioè, gliela dico meglio, ci possono essere persone oggi povere perché sbagliano a spendere quel piccolo reddito che hanno, che però gestito altrimenti potrebbe renderli non povere? Sì, questo vede, noi tra i documenti che chiediamo ad esempio è l'estratto conto della banca o della banca o del Banco Poste, o dove loro si fanno accreditare lo stipendio, se hanno lo stipendio, o dove loro operano. E la prima cosa che andiamo a vedere è spulciare un po' le voci, è stato il nostro lavoro per tanto tempo. La cosa che molte volte salta all'occhio, che cos'è? L'abbonamento alla TV privata, o cioè, il prelievo dalla sala bingo, che diciamo così non sono comportamenti corretti, sono comportamenti, adesso se io sto male, se non riesco a dare da mangiare ai miei figli, la prima cosa da fare che cos'è? Evito di andare alla sala bingo, evito di avere la televisione, perché vivo anche senza l'abbonamento alla TV, diciamo così generalista, ma senza andare su TV che ti premiano, non so, il calcio, andrò a vederlo al bar, andrò a vedere in qualche... Certo, è che diventano dei consigli molto personali, anche molto diversi, diciamo, dal carattere economico, perché diventa quasi un'educazione alla vita, nel senso che poi dopo la scelta di avere o non avere Sky è diverso, no, diciamo. Poi è chiaro che poi la scelta deve essere della famiglia, cioè ovvio. Che viene da noi diamo dei consigli, noi secondo noi, certo, per mantenere una buona qualità di vita diamo questi consigli, sì. Poi, senta Tripoli, un'altra domanda, c'è un consiglio ricorrente che date, qualcosa che vi capita spesso di dire, qualche spesa sbagliata che vi capita di consigliare di togliere alle famiglie più in difficoltà? No, quello che noi diciamo è quello di stare attenti alle facili trappole, cioè nel senso, fino a poco tempo fa, ma cosa vuoi che sia 50 euro, una rata di 50 euro, ma cosa vuoi che sia il telefonino preso a 29 euro al mese? Quindi le rate fisse, cioè tutte quelle cose fisse che si pagano in un anno, in due anni, in tre anni, stare attenti a questo. Se lei ci pensa, allora si aggiunge i 50 euro, i 25, i 30. E alla fine si sballa, paff. Bravo, alla fine si sballa, bisogna stare molto attenti quando si fanno questi acquisti e servirsi di intermediari sicuri, ecco, perché noi vediamo che ci sono anche intermediari che con delle operazioni, soprattutto nei confronti di quello che è la fascia dei pensionati, no? Le cessioni dei quinti ai pensionati sono qualcosa di drammatico. Ma quindi vi occupate in realtà anche di quello, nel senso anche di consigliare a qualcuno che magari ha sbagliato mutuo e uno dice guarda, cambia il mutuo, certo, spostalo in un'altra banca, fallo col tasso variabile piuttosto che fisso, adesso non, certo, me ne intendo, certo, ovviamente. È stato il nostro mestiere. Infatti in quelle... anche perché credo che chiunque, io almeno sognerei di avere, ma certo, un, ma infatti, mi scusi, guarda, senza offesa, ma un nonno che mi accompagni in banca e soprattutto un nonno bancario che quindi conosce benissimo quei meccanismi e che sa dire no, un momento, guarda che qua l'estratto conto lei ha fatto pagare 27 centesimi ed è illegale, per esempio. Certo, bisognerebbe... Ma vedi, dall'altra parte noi cosa ci troviamo? Ci troviamo poi molte volte i nostri ex colleghi, no? Ah, certo. E quindi per noi è molto facile andare a dire ma guarda che così non si fa, oppure guarda che questo non c'ha più niente da darti perché gli è calato il reddito, gli è calato, dobbiamo trovare una transazione. E quindi, ah, quindi fate anche diciamo intermediari, in noi siamo favoriti. Bisognerebbe trovare il modo, Tripoli, di coinvolgere il sindacato dei bancari, non lo so, in pensione, ma, o qualcosa per estendere questo servizio. Noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato. Bravi, fate da caso scuola. Siamo disponibili a, diciamo così, a trasmettere questa nostra esperienza. Bravi. Anche ad altri colleghi che volessero partire, perché poi guardi, noi la difficoltà che abbiamo trovato inizialmente 5 anni fa è stata proprio quella di trovare le persone che credessero un po' in questo. All'inizio noi facevamo delle riunioni in cui diciamo questi sono marziani, cosa vogliono, e poi, come sempre quando si cerca di fare qualcosa di nuovo, Tripoli, e comunque in bocca al lupo e grazie ancora per quello che fate. Complimenti. Saluto, grazie mille, arrivederci. Buona domenica. Questo era Progetto Insieme Onlus, insomma avete capito, se vi siete incuriositi e se state in provincia di Modena soprattutto, sì, perché sarebbe molto bello che ci fosse in tutte le città questo servizio. Ci andrei anch'io subito. Diciamo che estenderlo altrove non dovrebbe essere molto difficile, non è che ci vogliono delle conoscenze segrete, basta avere il personale a disposizione, gente che ha voglia magari in pensione di rimettersi in gioco e di fare come fanno loro a Modena. Benissimo. Mi chiedevi, sì, se ci sono novità sugli SMS, sulla questione delle scadenze. C'è una domanda che è: perché anni fa i farmaci duravano 5 anni e ora gli stessi farmaci ne durano solo 3? Questo ci chiede Anna via SMS. Non siamo in grado di rispondere, tra l'altro ovviamente. Siamo partiti dal riso, siamo finiti ai farmaci, perché i farmaci sono tocca di più, sì. È vero però che almeno che sembra che durino meno, nel senso che uno apre l'armadietto e i farmaci sono sempre scaduti, quelli della malattia precedente sono sempre scaduti. Simona da Roma, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, forte mi e chiaro. Sì, buongiorno. Cosa voleva dirci? Ma io volevo dirle, a proposito del personaggio della settimana, sì, a parer mio è Vittorio Sgarbi. Per quale come motivo? Mai? Ma beh, perché uno che difende molto l'arte, la lotta veramente contro il degrado, cioè per me è lui. E la notizia, diciamo, legata a Sgarbi di questa settimana? Ma no, esattamente non lo non so. C'era, io non c'era, ascoltato... non c'era. No, infatti, sì, Simona, no, non era lui. Non c'è non era nessun lui. Problema. Guarda che è un'interrogazione. Diamo spazio a qualcun altro. Maria, certo. Cristina. Arrivederci, grazie. Maria Cristina da Firenze, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Sì, sì, benissimo, ci dica. La Rovacher che ha vinto a Cannes. Esatto. Quindi risponde per il personaggio della settimana. No, che esatto. E perché è un numero due? È la sorella dell'attrice Alba, mi sembra si chiama. Giusto, è tutto corretto, ma non tanto è il personaggio. Io ho detto addirittura esatto, tanto che adesso si è confuso. Mi sono esaltato perché era ottimo, diciamo, era un'ottima ottimo. Risposta, ma non ed è era anche il una bellissima notizia. Mi dispiace perché le ho dato l'illusione. No, non è quella che avevamo scelto, Maria Cristina, semplicemente. Ah, non è la, sì. No, la notizia che ha vinto? No, ha vinto la palma d'argento a Cannes, ma non è il personaggio della settimana. Io mi sono lasciato andare con lei e ho detto esatto, ma non è il personaggio che avevo. Bacher non è lei, quindi. Non è lei, no, non signori. È un altro il personaggio della settimana. Ripetiamo gli indizi, facciamo un attimo di chiarezza perché sennò qua succede un caso. Gli indizi sono che il nostro personaggio ha cuore il proprio paese e è un numero due. E poi c'è una notizia legata a questo personaggio di questa settimana. E siccome in effetti il film della Rovacher è arrivato secondo, potremmo quasi decidere che un premio lo vince, perché riuscire a beccare un altro personaggio che corrisponde agli stessi indizi, che c'ha una notizia questa settimana. Vabbè, adesso chiederemo alla giuria superiore di Radio 24 e magari riusciremo a dare un premio anche a lei. Chi è la giuria superiore? Ma niente, così non lo so. Stefano da Sondrio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo intervenire per il discorso appunto legato alle scadenze. Sì, ci dica. Ma secondo me è un falso problema, cioè bisognerebbe ripensare il consumo, nel senso che pensare di consumare uno yogurt scaduto da un mese, forse è meglio comprarne meno e un po' più frequentemente. Non ha tutti i torti. Giusto, perché uno dovrebbe mangiare uno yogurt scaduto da qualche mese? C'ha ragione. Io ricordo la mia nonna, lei andava a fare la spesa tutti i giorni, chiaramente oggi forse non è più possibile. È più difficile, però, perché quando si lavora tutti e due, diciamo. Però neanche una volta difficile. Al mese, se no diventa un problema. No, neanche una volta al mese, soprattutto giusto. Molto spesso le offerte dei supermercati ci inducono a acquistare molto prodotto che poi scade e poi buttiamo via, cioè ripensiamo anche a quello. Giusto, giusto. Poi voglio dire, una cosa non esclude l'altra, nel senso che togliere le date di scadenza non è che significa incentivare i grandi acquisti, però è vero invece quello che dice, che in momenti di crisi uno cerca anche di comprare le cosiddette confezioni famiglia per risparmiare e poi magari si ritrova con centinaia di yogurt e i bambini che invece mangiano la Nutella. Grazie anche a Stefano. Facciamo una pausa, torniamo tra poco. 800 24 00 24, ancora caccia del personaggio della settimana. Lo ridiciamo l'indizio? L'abbiamo appena detto, va bene. È un numero 2 ed è un personaggio che ha a cuore il proprio paese. Abbiamo ridetto entrambi gli indizi. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Simone che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessi e buongiorno Gabbardini, scusate. Buongiorno, l'emozione. Grazie. Buongiorno. Su cosa vuole intervenire, Simone? Per quanto riguarda il personaggio misterioso, sì, sì. Secondo me dovrebbe essere Ungaretti, può essere. Giuseppe Ungaretti? Esatto. Il noto poeta? Poeta, il sommo poeta. E come mai? Qual è la notizia? Sono senza parole io per il momento. Per quanto riguarda diciamo i 100 anni dello scoppio della prima guerra mondiale, e allora non so, sentendo un servizio dal telegiornale, sì? E avevano fatto un accenno a un verso di Ungaretti che praticamente però accennava diciamo al suo pianto del cuore, diciamo, che gli piangeva il cuore e la nazione. E adesso ci deve dire anche perché è un numero 2 Ungaretti. Questo non lo so proprio dire. Vabbè, perché potrebbe esserci, perché Montale ha vinto il Nobel, Ungaretti non lo vinse, e invece diciamo della stessa ci corrente. Teneva molto, come se si può dire. Simone, lei vabbè, insomma, cioè, non lo so, l'originalità è però molto bella. Ha trovato risposta. Un collegamento. Esatto, abbiamo trovato un collegamento. Poi è stato un modo per parlare di Ungaretti fantastico, però non è lui il personaggio della settimana che avevamo pensato. Grazie. Grazie mille. Io invece controllo dai social, sì, come mi dici, degli sms, siccome io tutte le mattine twitto una foto quando non sono, sì, in ritardo, uguale sul mio Instagram, e oggi c'era una foto che era completamente deserta a parte io, perché in città non c'era nessun altro. Ho visto adesso che Roberto Bolle, il ballerino, ha appena twittato una foto di lui in tram dove dice: questa mattina non c'è nessuno a bordo, e qualcuno ha risposto al mio tweet e al tweet di Roberto Bolle, quindi al mio che venivo in radio, dicendo: stamattina Milano è veramente deserta, perché in entrambe le foto non c'era nessuno, e allora ci tenevo. C'eravate solo tu e Bolle. Esatto, perché e te Alessio, direi, anche in giro. Tu addirittura un po' prima di noi. Nadia da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, volevo rispondere al personaggio della settimana. Sì. Ottimo, ci dica. Dunque, allora, secondo me all'improvviso mi si è accesa questa fatidica lampadina pensando al senatore, tra virgolette, dell'Utri. Tra virgolette. Tra virgolette dell'Utri o tra virgolette senatore? Diciamo, o Libano, o vogliamo mettere Libano tra virgolette, diciamo, o estradizione, diciamo tutte e due, va bene, a parte questo. E come mai un numero 2? È un numero 2 perché so che ha un gemello, quindi potrebbe essere nato, diciamo, come certo. Non lo so. La notizia immagino che sia la firma della sua estradizione, che quindi settimana prossima dovrebbe tornare in Italia entro giovedì. Sei preparatissimo? Sono preparato. Mi sembra che ha rilasciato un'intervista tempo fa, non so se dico bene, forse sempre alla vostra trasmissione, in questa radio. Non era questa trasmissione, poteva essere questa la radio, non lo so. La comunque Zanzara, se può dirlo. Ma certo che può dirlo. tweet del genere dicendo che gli stava a cuore l'Italia, forse. Vabbè, questo ci credo. Ah, dice che torna perché gli sta a cuore l'Italia, ci credo sulla fiducia. Non per l'estradizione, torna perché gli sta a cuore il paese, o per i 7 anni, non si sa. Torno perché lo decido io, non perché mi chiama la giustizia. Non è lui. Complimenti perché aveva diciamo inanellato tutte le risposte. Va bene, adesso va, se mai aggiungiamo qualche altro indizio fra poco, vediamo. Se ce n'è bisogno. Adesso per parlare della prossima storia la introduciamo così con la tua canzone preferita da Sanremo, va, sentiamo. Devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero. Un po' di esaltazione generale qua anche in regia con Carmelo La Rucella, un ciclista di quelli proprio. E salutiamo da strapazzo Frankie High Energy. E questa è la tua canzone, l'hai già detto. Anche perché adesso a parte che è bella, più la senti e più è bella, è vero, questa canzone. All'inizio sembrava un po' così, un po' più l'acqua pedali, di rose. Più pedali, più ti piace. Perché parliamo di Polybikes, il progetto del Politecnico di Milano per il riuso delle biciclette abbandonate. E ne parliamo, visto che oggi la parola spreco è insomma, la parola chiave, la parola all'ordine del giorno di questa puntata. Ne parliamo con Davide Gibin, che è responsabile di questo progetto. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buongiorno. Allora, insomma, di progetti per il recupero delle biciclette ne abbiamo sentiti tanti e si cerca sempre, perché si sa che in giro per la città c'è questa cosa delle biciclette abbandonate alle stazioni, vicino alle residenze universitarie. Oddio, a Milano è più frequente che le facciano sparire. Che... Esatto, di solito rimangono abbandonate per poco tempo. Però voi volete intervenire come? Esatto, allora, l'idea parte da un gruppo che si chiama Gruppo Policiclo. E l'idea sarebbe di aprire una ciclofficina al polo di Bovisa, di Durando, grazie al contributo del Politecnico di Milano, e successivamente all'apertura di questa ciclofficina riutilizzare i ruderi che vengono presi dall'AMSA e costruire così un servizio di bike sharing per gli studenti e per il corpo docenti del Politecnico. Ah, ecco, questa è l'idea, cioè di valorizzare i cicli, insomma, ritrovati dall'AMSA, cioè dateceli a noi, li risistemiamo a spese nostre e li rendiamo utilizzabili, credo gratuitamente. Sì, tutto sarà ovviamente gratuito. Ecco, per ma solo per chi fa il Politecnico. Beh, sì. O per chi insegna al Politecnico, giusto? Sì, esatto, l'idea iniziale è quella, poi si vedrà. Poi lo si allarga magari anche ai pensionati della zona. Potete fare anche una mezza industria. Vabbè, in teoria c'è già il bike sharing di Milano, quindi non vorremmo... Cioè, restare in piedi. Ma e quindi saranno anche delle biciclette, diciamo, di design, perché sono fatte componendo pezzi a caso di biciclette diverse? Sì, diciamo, l'idea è utilizzare appunto il pacco di biciclette che ci verrà donato dal Comune di Milano, sì, e con queste costruire una bici funzionante in tutto e per tutto. Ecco, ma il Comune di una, non una sola. Sì. Una però bellissima. Una gigante. Ma il Comune però ve le dà ste biciclette o no? Perché questo è il punto. Ecco, allora adesso non abbiamo notizie certe sotto questo punto di vista. Sì. Diciamo che stiamo ancora definendo le modalità di partecipazione ai possibili bandi da parte del Comune di Milano. Però comunque avevamo già parlato con alcuni esponenti del comune e sembravano contenti dell'iniziativa. Ma mi raccomando, esponenti del comune all'ascolto, Carlo, poi ti faccio andare. Non tiratevi indietro, cioè, gli avete detto che gliele date, dategliele, perché tanto poi si sa come va a finire, che diventano mucchi di ruggine inutilizzate. Questi ragazzi le vogliono recuperare. Meglio di così. Infatti la cosa che mi chiedevo è se in realtà esiste un servizio dell'AMSA per cui le biciclette vengono recuperate in modo differente dal resto. Cioè loro hanno delle biciclette che sono quelle che raccolgono in giro? Sì, esatto, l'AMSA ha proprio un servizio adibito al recupero di biciclette abbandonate. Ma che sono anche quelle che a volte troviamo tipo legate ai pali con tanto di catena, che però magari gli hanno rubato le ruote? Esatto, perché la bicicletta, dal momento in cui dovesse mancare le parti, diciamo, essenziali, come, non so, la ruota, il manubrio, i pedali, o i pedali, viene considerata un rifiuto e quindi viene sotto segnalazione da parte di tutti i cittadini. Ah, perché infatti mi sono sempre incuriosito, dopo quanto tempo uno decide che quella bicicletta, cioè, perché immagino che arrivi l'AMSA anche con un tronchesino, debba tagliare la catena, giusto? Sì, esatto, cioè il procedimento, allora, parte dal cittadino, nel senso che uno segnala e dice c'è sempre questa bici a questo palo ormai da 2 mesi. Esatto, poi deve uscire un vigile del comune di Milano che appunto appone un cartellino con scritto la data in cui... Ah, ok, giusto. E dice 130 giorni o insomma, esatto, quello che è. 130 giorni, se il proprietario non rimuove la bicicletta o non si fa vivo in nessun modo, allora arriva l'AMSA e appunto è autorizzata. E quindi è un iter complicatissimo, peraltro. In qualche modo costano anche un sacco queste bici, perché costa il cittadino che fa la segnalazione, esce il vigile appone il coso, se nessuno si fa vivo arriva l'AMSA, taglia la catena e recupera la bicicletta, giusto? Esatto, recupera la bicicletta che viene adibita nei magazzini a rudere di bicicletta. Sì. Molto bene, per il museo della bicicletta decaduta. Va bene. Un progetto bellissimo, complimenti. Anche perché uno magari si ritrova dei pezzi della propria bicicletta rudere e mi sembra molto molto bello. Anche qua mi viene da dire, speriamo di riuscire a superare i limiti della burocrazia, cioè che non ci sia qualche regolamento che impedisce, qualche regola, qualche legge, qualche cavillo da qualche parte, di darvi queste bici per utilizzarle. Polybikes, Politecnico di Milano, Gibin, Davide, in bocca al lupo. Policiclo. In bocca al lupo. Perché i giornali hanno scritto Polybikes. Ecco, invece ecco, è Policiclo. Com'è che è la pagina? www.policiclo.it. Perfetto, grazie. Grazie. Ciao. 800 24 00 24. Ancora qualche minuto per intervenire, per indovinare il personaggio della settimana o per commentare quello che avete sentito sin qua. Ci dobbiamo dare altri indizi? No, per il momento no. Ci fermiamo qualche istante. Ci fermiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, non so come dirlo, non so come si pronuncia l'ascoltatore che ci chiama da Vicenza. Lo dica lei il nome. Neboisha, ecco, perché è difficile. C'era un paio di consonanti che mi impaurivano. Cosa voleva dire? Sì. Ma io volevo solo indovinare la persona della settimana. Sì, ottimo, sentiamo. Nova Djokovic sicuramente. Sicuramente. Sicuramente, è numero uno, numero due, fra poco numero uno, dopo Roland Garros penso. Non ho dubbi. Non ha dubbi, è molto... il suo paese perché? Perché dopo le inondazioni che sono successe in Serbia ha fatto questa dichiarazione dopo il torneo di Roma, penso che è la persona sicuramente giusta. Complimenti, bravo, complimenti anche per la tua sicumera, proprio certissimo. Ha detto Djokovic, esatto. Sicuramente. Sembrava quasi preparato, invece è proprio perfettissimo. Siamo molto contenti. La notizia. Seguiamo il nostro campione, quello che dice, quello che fa. Per me è stato facile, dopo veramente. Per fortuna che era lui, perché così a sentire ho la sensazione che ti saresti arrabbiato moltissimo. Se per sbaglio, non so, era la Rohrwacher, come abbiamo detto prima, che avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere il personaggio, ma il nostro personaggio è Djokovic, la cui notizia è quella, sì, appunto, che ha deciso di devolvere il premio dell'Internazionale di Roma, giusto? Correggimi se sbaglio, sì. Alessio. Di devolvere in beneficenza per gli alluvionati della Serbia, una situazione gravissima che si è creata grazie a Neboja che vince chiama da Vicenza. Adesso vediamo forse quelli di Torino, perché insomma cerchiamo di dare anche in base alla città la mostra a Torino, i pre-raffaelliti, il catalogo della mostra e i biglietti per andare alla mostra. L'altra è quella di Warhol a Roma, vediamo, magari facciamo scegliere anche agli ascoltatori. Ma certo. Che dire, adesso per l'ultima notizia di oggi ci spostiamo in Riviera Romagnola. Yeah. Romagnola per parlare di una spiaggia particolare, una spiaggia attrezzata per i disabili. Rimini all'avanguardia in Europa, sedie a ruote speciali per entrare in acqua, lettini rialzati e pedane tattili per i ciechi e molto altro. Parliamo del bagno numero 27, già che in quella zona di mare gli stabilimenti si nominano anche così con i numeri. È proprio iniziata l'estate. Ci siamo, ne parliamo con Stefano Mazzotti, titolare del bagno 27 di Rimini. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, insomma, sono molte le iniziative che voi fate per aiutare ed accompagnare, insomma, al mare i disabili. Ce ne vuol parlare? Perché è un argomento questo di cui in effetti non si parla mai, si tende un po' a far finta di niente. Invece voi avete affrontato la questione di petto. L'abbiamo affrontata di petto, è un progetto che è nato nel 2008, portato avanti dalla provincia di Rimini, che si chiama Spiaggia Libera Tutti, al quale hanno aderito il mio ed altri bagni a Rimini Nord e a Riccione. In totale non siamo moltissimi, però comunque siamo un numero di stabilimenti che ci permette comunque di poter offrire una buona accoglienza a tutte quelle persone che hanno necessità di avere degli stabilimenti accessibili. Senta Mazzotti, adesso ci spiega anche come fate e cosa fate esattamente, però è vero, ho letto bene che, diciamo, al primo bando delle istituzioni siete stati i soli a partecipare? Eravamo per Rimini, sì, per Riccione c'era un altro bagno, sì. E per Rimini Nord un altro bagno, però diciamo che eravamo di fatto i soli. Dopo, piano piano, a ruota sono venuti anche altri, però eravamo i primi a partire. Questo per dire, insomma, che a volte anche di fronte a una mano tesa, un'offerta da parte delle istituzioni, noi ci lamentiamo sempre che lo Stato non fa abbastanza, anche quando c'è un bando, una possibilità, poi però insomma, chi è che si rimbocca le maniche e si mette in gioco in una cosa, in una sfida anche come questa, di una spiaggia attrezzata per disabili, non sono poi molti a partecipare. A volte quindi, sono meno di quelli che ci si dovrebbe aspettare. E come tutte le cose, è una cosa che deve partire da dentro, dalle persone. Se ci credi in queste cose, poi dopo le porti avanti con tutte le tue forze, però alla fine il ritorno che hai anche a livello personale, umano, e proprio di soddisfazione interiore, che è una cosa che va al di là del business. E lei, Stefano, perché ha cominciato a crederci? Ho cominciato a crederci perché ho sempre creduto che comunque la spiaggia è un bene pubblico, prima di tutto un bene demaniale, logicamente, quindi a disposizione di tutti, dove noi affittiamo lettini e ombrelloni, però di fatto deve essere un bene che deve essere usufruibile e accessibile a tutti. E quindi io mi sono sempre messo nelle condizioni di pensare che tutto quello, o spero la maggior parte delle cose che riesco a fare io normodotato, riuscissi a farle all'interno del mio stabilimento anche una persona che magari aveva degli impedimenti, che fosse sulla sedia piuttosto che un cieco o altre cose. E quindi abbiamo lavorato in quest'ordine di cose qui e piano piano i risultati ci hanno dato soddisfazione. E come vanno le prenotazioni quest'anno? Ma noi siamo sempre molto ottimisti, quindi direi che vanno abbastanza bene. In più la Romagna ha sempre avuto questo quid dell'accoglienza e di un rapporto tra le persone che va al di là del rapporto lavoro cliente, ma in realtà è un rapporto tra persone che si considerano amiche, quindi è un momento storico nel quale abbiamo un buon successo, siamo molto contenti. È molto giusto. È vero giusto. Che c'è anche un progetto, un nuovo progetto per l'assunzione di ragazzi con autismo. Certo. Allora, il progetto è partito con l'associazione Rimini Autismo e ha coinvolto nella formazione sull'accoglienza di 60 stabilimenti balneari. In più 5 di questi stabilimenti balneari, tra i quali il mio, hanno dato anche il proprio assenso per poter assumere dei ragazzi che ad alta funzione, autistici ad alto funzionamento, che faranno dei lavori di mansione, di pulizia della spiaggia, in un ambiente sicuramente protetto. Sarebbe bello, Mazzotti, purtroppo dobbiamo lasciarci, risentirci più avanti o verso molto la fine dell'estate per vedere com'è andata. Io vengo, se no, a trovarvi, faccio l'inviato, se mi dai il permesso faccio queste 3 settimane a Rimini molto volentieri. Certo, come no. Grazie, va bene, grazie, vengo al bagno 27. Salutiamo Carmelo Rocella in regia, Camilla Tomadini in redazione insieme a Giorgio De Luca, così come Andrea Piana che ha scritto con noi il programma. Ci risentiamo sabato prossimo, buona giornata, ciao.